Emanuele. Oi, Marco lì. Sono ascolti con questa modulazione, Marco. Marcia. Fortissimo, fortissimo da fare sordo. Come sempre, nessun problema. Comunque, comprensibilità piena. Io mi stavo ascoltando i 40 metri un po'. C'è una bella propagazione, mi senti? Io non la cambio con nessun'altra antenna. Senti, che frequenza è? 120? Allora, qua 120, 720. 7000, aspetta, te lo dico. No, è un po' pieno tutto, dai. Ah, mi è sparita la frequenza, vai, non la buona. No, perché sto usando l'SDR, si è incasinato quando ho spento lo smartphone, mi è sparita la frequenza. E 7000 e tanti, intorno ai 7100, giù di lì. Oh, ci sono bei segnali, dai. Eh beh, quando c'è nel segnale è bello ascoltare, quando non vi ne è, cosa ascolti? Lui, il muro? Appunto, infatti fa piacere ascoltare quando ci sono queste propagazioni. 7133.5, una cosa del genere. Ma segnaloni stanno arrivando, che poi non ricevo io, capito? Chi riceve la stazione di Milazzo in Sicilia? O dov'è? Milazzo in Sicilia? Sì, da quelle zone lì dovrebbe essere. Da quelle zone lì. Vabbè, dai. Adesso. Mamma mia, torna nero, si sta facendo il suo tempo. Ma sai se ha messo acqua domani ancora? Oddio, posso guardare meteo.it, vediamo cosa prevede per domani. Un attimino, che controllo. Allora. Meteo Sassari, meteo.it però Sassari. Allora, martedì dice... Allora, alle 8 di mattina, sole fino alle 2, poi alle 17, fino alle 14, no, poi alle 17, nuvolo, forse qualche pioggerellina modesta alle 8 di sera, tutto lì. Qualche pioggerellina tipo fesserie mia alle 8 di sera. Forse invece giovedì ha dato brutto, tipo temporali. Poi bisogna vedere giovedì se è cambiata la cosa, capito? Previsioni non sono mai esatte, Emanuele. Cazzo, non ho fatto una maglia da leva, canale, poi, per carità. Ma Eva, adesso si sta alzando attorno al vento, comunque torna a piovere, serata. Perché c'è l'aria nera. Sì, comunque siamo un po' in una perturbazione. Mercoledì dovrebbe già piovere di più. Decisamente, sì. Giovedì poi non ne parliamo. Mi sono dovuto mettere i calzettoni grossi, avevo un freddo ai piedi, ma i piedi ghiacciatemi. Se non rischio di pigliarmi un malanno a casa, il colmo sarebbe mio. No, io qua di solito non mi metto mai calze quando sono in casa, non le metto mai, sempre in ciabatte, con le ciabatte chiuse, però cioè, il calze non le metto mai. E allora già c'è freddo comunque. Ciao Gianfranco, aspetta che abbasso il volume della CDR online. Oggi un bel po' di abulotto, c'è propagazione, sembra che quando è nuvoloso ci sia più propagazione. Vai avanti Gianfra. Sì, buonasera a tutti. Sì, un pochino sì c'è propagazione. Poi però c'è anche QRM forte. Anche io stavo ascoltando, salendo da giù, andando verso su, devo arrivare fino ai 50, ma ne manca ancora quanto? Sono a metà strada. Eia, 40 metri, bel movimento oggi. Poi peraltro l'SDR di Milazzo ha ripreso a funzionare, Gianfra. Perché pochi giorni fa era offline, non era raggiungibile per vari giorni, oggi vedo che è operativo. No, a me piace quello anche perché ha anche 20 metri, mentre quello Roma 4 non ha i 20 metri, pare ai 10, 40, gli 80, ma i 20 no. Per la mattina no, per le ore diurne più che altro. No, io non dico, sono in diretta. sono in diretta, inizio dal basso fino ad arrivare a fare 50 e poi se c'è roba interessante torno indietro oppure passo ad altro, tutto lì. Con chi sei? Come mai, cosa mi hai chiesto Gianfranco? Quindi tu mi senti, tu li senti? Ha detto con chi sei? Chi c'è? C'è sotto? No, c'era Emanuele che stava provando e gli ho detto tutto a posto, tutto forte. Ovviamente tu lo sentirai male che c'hai l'apparecchio professionale stretto. Qua ancora è, non, col baracchino non ne dà problemi. Invece ho notato che questo 3009 è molto stretto di ricezione in FM, lo sai. Basta che uno abbia allargato abbastanza la deviazione FM in trasmissione che io lo sento strappatissimo. E tende appena appena a strappare anche su quegli apparecchi omologati, quelli che escono proprio stretti stretti. Non è perfetto come ricezione in FM. D'altronde pochi apparati lo sono in FM. Uomo come te deve ascoltare dal computer, cioè. Ma ci comprare cagate, copra che invece mi trovi serio. Per carità, lo devo sentire. Cioè. Ciao Claudio! Ma io antenne qua non ne posso mettere sul tetto, a meno che non mi prenda quelle loop magnetiche, però non mi ispirano molto, per quanto dicano che vadano bene. Non mi ispirano molto, Claudio, con questi antennini da mettere dentro casa, boh. E poi se vuoi quelli belli che non sentono quel RM, devi mettere... devi spendere, mi, cioè se vuoi una loop magnetica di quelle belle filtrate, belle, già hai capito, no? Costano. Ne ho vista una cinese che costa pochissimo, la M30, non so, M30, MA30, non mi ricordo, e costa roba di 25 euro, mi, e ti danno anche una specie di amplificatorino, però è tutto da provare, boh. Ehi vabbè, per ricevere ci vogliono le antenne, se no non ricevi niente. Vabbè, dai, io sono in 20 metri, non in 40. Ci sentiamo, statene bene. Aspetta, però ascolta una cosa, Claudio, a parte le antenne, io non ho più un ricevitore HF. Io non possiedo più ricevitori HF, non posso proprio materialmente ascoltare in HF. Una volta avevo il Texun, poi l'avevo dato. E queste sono comode, certo, mi piacerebbe ricevere con un'antenna mia, però è gratis, cosa vuoi di più? Ragazzi, ti piace il baracchino? Beh, c'è un bel ricevitore, è sempre bello, capito? Vabbè, io sto ascoltando con la HF, quindi uno in 40, uno in 20. Segnali forti, è normale, se c'è tempo brutto, la preparazione è molto, molto lunga. Vabbè dai, divertitevi, ci sentiamo più tardi se coincide. Dipende, Gianfra. Ciao, ciao Claudio, buona serata. Per tutti ti sentivo male comunque, ho sentito benissimo, invece l'ambulanza che è passata, la sirena spiegasse. La tua voce è esagerata, è presente che sto usando anche un omologato, quindi troppa. Ti prendi Marco? Non ho capito, Giotto, ma stai dicendo a me la radio, a me stai dicendo? Sì. È passata l'ambulanza, ho sentito più l'ambulanza e tu ti senti vibrare la tua parlante, ma tutto mi farà a terra l'apparecchio. Devo regolare tra te e Marco col volume, devo fare col volume girando. È troppo amplificata, esagerata, oserei dire. È sempre così, io mi chiedo ce l'ho uno, non lo tocco mai, non sono abituato a fare tocca e ti tocca. È sempre così, non lo tocco mai, questa è la seconda radio, anche la terza radio, Kenwood, quindi, ma sono tutte e tre uguali, non è che cambiamo. Va bene, vai, non ti disturbo, non ti faccio sordo, sto in Corix, vai Marco, riprendi. No, era solo informato, mica ti sto criticando. Oggi lo so che sei un po' giù, ma abbi pazienza. Adesso ad esempio sentivo le voci voci femminili abbastanza alte. Quelle ci vogliono a casa, le voci ci vogliono. Se non ci sono voci vuol dire che vivi da solo e fai il topo. Oppure c'è una stanza tutta per te. Riprendi Marco. Mamma mia, sta alimentatore ha ricominciato a ronzare, adesso lo spacco tutto. Sapete, per l'inverno gli stacco la ventolina, tanto rimane sempre freddo. E quindi inutile. Allora, MLA30, loop, antenna ricevitore, ricevente, e costa una miseria, 25-30 euro. Ci devi mettere solo un pezzo di canaletta per tenere il cerchietto, dai, come lo puoi chiamare? L'antenna vera e propria. Poi c'è una cosettina che non so sia un balo, una dei componenti all'interno. E poi ti danno un amplificatorino, però non so come filtraggio come sia. Cioè se la metti in casa prenderà, penso, tutti i rumori che c'è di casa. E comunque sempre il ricevitore ci vuole. Capito Gianfranco? E per quel ricevitore, tra l'altro, mi dovevi contattare due apparati fa. No, perché due apparati fa? Non ti sto seguendo. No, tu lo stai vendendo, no? Cos'era un ICR71? Io fino a due apparati fa, CB, i soldi ce li avevo, poi ho preso due baracchinetti nel tempo e adesso sono al verde quasi. Quasi però. Ah, ho capito. No, perché c'era un po' davanti ancora, mi ero ripromesso di metterlo nel scatola, ma per troppi impegni non riesco a fare un tubo. Giusto accendere la radio, fare ascolto, insomma quelle cose lì. Lo devo imballare, c'è già la scatola anche qua vicino, per metterlo dentro, per spedirlo. Ovviamente ne prendo un altro, prendo l'ultimo grido dovrebbe essere, per fare ascolto. Ecco cosa ti volevo dire, quando era avanti ieri stavo ascoltando la BBC e con mia grande sorpresa stavo parlando in italiano, c'era un italiano e stava facendo una trasmissione notevole, praticamente è durata anche un bel po', e c'è ogni settimana stavo parlando del radioascolto, della radio della seconda guerra mondiale, per cosa li usavano, come erano fatte, tutte a valvole erano ovviamente all'epoca, la portata che avevano, il loro utilizzo, era molto molto interessante. Se ne sono andati sulla BBC perché in Italia anche li cagano, ma te lo immagini, a parte che non d'accordo non ci abbiamo più niente. Vabbè, chissà se si trovano in rete questi documentari, questi programmi qua comunque. A sapere il titolo, non lo so. Poi va bene, inglese, oddio, se fosse sottotitolato sarebbe anche meglio. Se no è tosta, mamma mia. Mamma mia, ho un casino. A bozza? Ma se tu avvicini, è ovvio. Comunque era in italiano, in lingua italiana, infatti ti ho detto, dato che in Italia non ricade nessuno, deve essere, mi hanno subito mandato in onda in Inghilterra, con la BBC, niente di meno, che fanno trasmissioni molto più, insomma, più interessanti, che la gente ascolta, perché sapere cosa usavano, e poi la verità, diciamo, hanno smentito tutti i film che guardiamo, no? Vedi queste radio di lì della seconda guerra mondiale parlando a destra, a sinistra, passata massima un chilometro in realtà, perché c'avevamo un watt, due proprio esagerando. Aspetta, in italiano era bello, ma BBC, come l'hai visto, online, streaming, via satellite, come l'hai visto tu sulla BBC? No, con la radio, col ricevitore, siccome l'ho riacceso perché te l'ho detto, c'era dei problemi sullo spinotto, il SDR, quello, non lo SDR che pensi, ovviamente l'SDR per fare ascolto per il proprio, era veramente interessante. Stavo girando domanda come sto facendo adesso. Adesso mi sono fermato un attimino su una stazione inglese, che è sempre inglese, che è dalla RAF a 11.256, no, 11.252, che sta dicendo il bollettino, no, il meteo. C'è una signora che sta calamizzando. Ehi, audio, ok. Vabbè, allora magari se era roba TV forse si trovava di più, se erano programmi TV, meno male online qualcosa l'avevo recuperato, poi roba che mi ero perso alla TV, lingue originali, lingue italiane o pure sottotitoli. E tu avevi l'RTL SDR oppure avevi roba più, non mi ricordo, ma ne avevamo parlato l'altra volta. No, perché se proprio dovessimo, cioè costa pochissimo quella chiave tali RTL SDR, un'antenna poi di quelle, tipo questa MLA30, messa fuori ovviamente, no? Anche se sono al piano rialzato qualcosa prenderà. Però mi preoccupa il sistema di filtraggio, sicuramente prende un bel rumore, boh. Cioè per costare così poco deve essere, come dico io, una cena esatta, poi chi lo sa. Vediamo sempre se c'è qualcuno che vuole entrare. No, non entrerà nessuno. Ah, perché non lo piace il discorso. E vabbè, se parli di cose un po' così, non entra nessuno. Me ne accorgo, poi non. Va bene, non fa niente. Anzi, forse è meglio. Greco! Ecco, Gianni mi ha fatto sordo, mi. Per Gianfranco ho dovuto alzare il volume. Beh, vai Gianni. Buonasera a tutti, dai. Ciao Gianfranco, ciao anche a te Marco, non so se ci sia altra gente. Avanti e fai girare, cambio. E io già, sì, c'è Gianfranco e boh, è entrato a salutare Claudio, poi Daniele, Emanuele c'era, ma credo sia passato in PMR. E vai Gianfranco, dai. Sì, ciao Gianni, non so se sei in macchina, non so se mi senti. Buona serata, buona ascoltata, avanti. No, sono a casa, perché come ci sta arrivando male? No, pensavo fosse in macchina, ma sento di subito in macchina, quindi l'ho tirata lì, dai. Ah, capo, almeno ci si così bene dalla macchina. Buonasera comunque Gianfra. E niente, in macchina adesso ho scogitato una cosa, mi metto un microfonino nel portatile, il portatile lo lascio in terra e uso il microfonino, così almeno non sto con questo portatile in mano, l'ho ordinato adesso e mi arriverà il giorno, dai. Dovrebbe essere tutto pieno. Tipo Kingwood, dunque, ritornando a prima, Marco, credo che siano 5 in tutto, se consideriamo anche quello che si usa di varie marche, compreso quella che hai detto tu. Eia, non so quale sia l'ottimissimo però. Mi pare l'ultimissima la forma di una chiavetta USB, mentre quello che tutti consigliavano, almeno fino a un anno fa, due anni fa, non ricordo, era spesso di colore azzurrino, sempre RTL SDR, e aveva un delfino serigrafato sopra. Era un po' più grandetto però, E poi, vabbè, non lo so se è il caso di tentare, dovrei dipendere dal computer per ricevere, no? Vabbè. Sì, riprendi Gianni. Eh, io guarda, sono al di fuori del discorso perché non ho fatto ascolto, dico la verità, ho sentito gente, ho recato subito senza fare ascolto, è stato un mio errore. Vabbè, non so di che cosa stavate parlando, e quindi apritemi gli occhi. SDR, perché stiamo parlando un po' di radioascolto. E guarda, uno si chiama, quello che c'ho qua, l'ultimo che ho preso, mannaggia, non si legge, però diciamo dovrebbe essere Nortec, lo trovi su Amazon, credo che siamo a casa canadese. L'altro, poi c'è un'altra pennina, questa è veramente piccola, era la Radar Box, che è per i mille spiccioli. Poi, sempre parlando dei piccolini, c'ho qua quello che dice V2 RTL SDR, la scatola quadrata con due ingressi. Quello invece serio, da cui ce ne sono 30 di qui a fare, è lui in radio, che è una casa australiana specializzata in apparati governativi, civili, eccetera. Ho capito, l'Australia è una di quelle che fabbrica più apparati di tutti, ha 3-4 marche a livello mondiale, però è tutta roba d'elite, capito? Tutta roba strana. È tutto lì. Quindi ovviamente quello superiore è quello della Unione Radio. Io pensavo al Giappone. Sì, il Giappone, insomma, non li fa neanche lì li fanno gli apparati oramai, sono apparati in Cina quasi, quindi figurati. E poi ad esempio anche nel campo dei televisori il Giappone non esiste quasi, questa roba coreana, tipo la Samsung, l'LG. Quindi è scesa, quando non si fa ricerca ci mette pochi anni a cadere. Vetri di Marco, semplicemente che queste chiavette comunque quelle di basso prezzo risentono in maniera micidiale in VHF delle radio FM, e più sotto diciamo di tutte spurie, armoniche, speccano tutto. Sì, sto guardando sul sito rtlsdr.com, ma mi compare questa con la forma di chiavetta, l'attacco USB da una parte e l'uscita antenna, cioè l'ingresso antenna. Forse è l'ultima versione, mi dice V3, se riesco a togliere la foto magari a pigliarla, mi ha chiuso tutto. Vabbè, sì, dovrebbe essere l'ultima versione comunque, quindi più piccola anche. Sì, probabile, ma guarda anche su Amazon ce ne sono tante, ci sono soprattutto queste che ho preso io dalla Nortec, come si deve chiamare così, tu metti chiavetta SDR e le trovi tutte. Come il tempo sembra un po' calmato, boh, però c'è freddo, c'è un po' di freddo. Li prendi Gianni? Ehi, prima tutte le cose che vedevi erano made in Giappone, adesso tutte made in Cina e Corea, sì è vero, hai ragione, stanno andando, la Cina tecnologicamente è superata. Ehi già, se vi ricordate, credo il Giappone sia partito per primo, no? Poi hanno fatto made in Corea, un po' visto made in Singapore forse, non Singapore per le radio non lo so, insomma tutti i paesi asiatici, per esempio questo qua, l'ultimo dei 3009, perché non so se ne faranno altre versioni, è fatto in Malesia, capito? Quindi Giappone, aspetta com'era, Corea, forse in Hong Kong, no vabbè, non voglio sbagliare, dai, comunque un po' tutti i paesi asiatici si sono allargati, dai. Vabbè, l'Italia è un po' indietro in certe cose, tecnologia è molto avanzata da quelle parti, anche perché poi sfruttano molto minorenni a fare queste cose. No, in Italia siamo forti una roba super tecnologica, diciamo estrema, dai, tipo soprattutto spaziale. Ad esempio stiamo costruendo una perforatrice che dovrà andare su Marte per bucare la roccia e prelevare i campioni, che sembra una cosa banale, però fatta di lì, con quei venti, con quei cose, deve essere a prova di bomba, veramente, una cosa notevole. Ed una precisione assoluta, perché poi prende il campione, lo mette in una scatoletta acetica, insomma, una cosa pazzesca. E tra quelli siamo i migliori del mondo, su quel campo. E quindi, insomma, ognuno ha la sua specializzazione. Sì, ma dico nel campo delle radio, stavo parlando, sì, vabbè, ci sono anche le cose che l'Italia fa meglio degli altri, senza ombra di dubbio. Vedi, gli americani che sono tanto grandi, non si è sentito mai Made in America, un apparecchio. Come no? Ce ne sono americane. C'è la Collins, c'è la Motorola, c'è la... non me lo ricordo. Comunque, ad esempio, se parliamo della Seconda Guerra Mondiale, le radio migliori erano quelle tedesche, tanto per cambiare, fatte dalla... porca miseria, non mi viene. Vabbè, Telefunken, cavolo, Telefunken, che già all'epoca esisteva alla grande. Sì, ma vabbè, quelle lì sono tutte radio di vecchia era, dai, non sono cose innovative. Ma le cose, vabbè, sì, sono qualcosa della Seconda Guerra Mondiale, ma parliamo di recenti, quelle case dipende dall'uso essenzialmente. Anche l'Italia fa trasmettitori eccetera, ma sono a altissimo livello sempre, roba che non vedrei mai in vendita, perché è roba governativa. Abbiamo almeno un paio di marche che è solo professionale. Abbiamo, che ne so, a parte la Selex, che si fabbrica anche radar a uso esclusivamente militare, e poi c'è il gruppo Finmeccanica, poi c'è anche MC, che è Emiliana Meccanica Comunicazioni, una cosa del genere, che fa le radio, la faceva anche per il 118 e compagnia cantante. Però sono sempre delle nicchie, capito? Non è che te la trovi così. C'era la ex Otte, Otte Marconi, insomma ce n'è un po', però è tutta roba particolare. Sono tutte radio che non sono in vendita per il pubblico, ma sono radio che danno in dotazione magari per enti, per carabinieri, polizia, per queste forze dell'ordine, eccetera. Ha capito, Marco, ripeto. Marco sta mangiando. No, dovrebbe fare colazione intorno alle 7, credo. Forse si è allontanato un attimo. È tutta roba per quelli lì, capito? Tieni presente che se fai un calcolo molto veloce in Italia, ad esempio, quante radioamatoriali si vendono? Sono quei negozianti, tutto distribuito di lì, e quindi sono veramente pochi spiccioli che guadagnano. Mentre quelli se devono, che ne so, fornire un ente, vanno a Coti, proprio un ente piccolino a livello di comune, tipo 100 portatili, 40 veicolari, 5 stazioni base, 2 ripetitori, insomma è un altro tipo di mercato, capito? Poi se tieni presente che è roba che costa già singolarmente abbastanza cara, sono appalti milionari, un milione di euro, cioè sono di norma, e i guadagni sono ben altri. E chi è questo qua? Questo qua? Quel monello di Falconero, ma voi ci andate con la mascherina, la fontana alla billetera, ci andate a bere l'acqua? Buonasera Falconero, dai, compagnia di Gianfranco e di Marco Condo, dai, va per chi vuoi. Sono al telefono Gianni. Cappa, c'era Gianfranco me al telefono, ha detto adesso che l'hanno chiamato al telefono, c'era Marco Condo anche, Marco. Ehi già, ho staccato perché sto andando a mangiare, dai. E poi questo alimentatore mi sta esasperando. Quindi lo tolgo e metto quello senza ventola. E forse rientro più tardi, dai, che se devo fare qualcosina. Ok già. Saluta Falconero se mi ascolta, dai. Ok, ciao anche a Gianfranco, ciao a tutti. Ciao Marco, buona carica, avanti Falconero. Marco sta andando a pranzare. Bene, io ti ascolto bene, io ti ascolto sempre perché la zona di sorso per me è di fronte, dai. No, ti ascolto bene. Il segnale magari non è forte, ma la radio va molto bene. A confronto di altre volte magari che ti sentivo più basso, oggi non c'è QRM. Siamo rimasti soli Falcone perché Marco è andato a mangiare, l'altro Gianfranco è al telefono, per cui siamo rimasti io e tu. Vediamo un po' se vuole fare qualcuno, lasciamo un attimo di bianco. Nada de nada. Cap. Niente. E te mi conta già. Abiru. Già mi sembo su. Stasera mi sembo su sempre. La mascherina adesso bisogna metterla sempre, anche se non c'è gente. Anche se non ci sono affollamenti di gente, assembramenti, eccetera, eccetera, bisogna metterla lo stesso. Adesso bisogna uscire con la museruola sempre, come i cani feroci. Non è così però, perché se ti trovano sono dalle 400 alle 1000 euro di multa. Perché oltre alla mascherina ci vuole anche la distanza di sicurezza. Non è solo la mascherina, perché si tratta di uno attaccato all'altro e preso dalla luce. Vabbè che ieri in un programma hanno intervistato questa tipa che praticamente stava molto attenta, indossava sempre la mascherina e tutto quanto, e si è abitato il coronavirus su Mattesi. Il dottore ha detto che è possibile che toccandosi gli occhi, incontrando qualcuno magari senza mascherina che ci aveva il coronavirus, se l'abbia preso ugualmente, è passato dagli occhi, capito? Ma infatti qualche cosa di sotto c'è. Secondo me c'è anche il business per far vendere mascherine, i prodotti per lavarti le mani, i guanti, tutte queste cose qua, capito? Le case farmaceutiche ci guadagnano, c'è tutto un business dietro. Secondo me ci sono delle persone superiori a chi governa, che li sta comandando, diciamo, li sta facendo fare quello che vogliono. Sì. Ah, io faccio un rubare in cinese. No, io se la imparo adesso a farmi dare italiano. Ma è bello però è uno sciarpe cinese. No, il mio. Le pesa 20 di chili, 18, dai 18 e 20 chili pesa. Taglia medio. Non è né piccolo né grande, è medio. È un bel cane, dai. Molto muscoloso, ha una bella linea. Lo so perché se la stanno. Vabbè, dipende sempre dalle passioni. Se tu un cane non l'hai mai avuto, non capirai mai quello che ti dà un cane. Avanti chi vuole entrare. Io non ti do nessuno. E boh, se vuole entrare, avanti. E dai, c'è il renale. Lo so. Ma io li vedo più come animali da compagnia, dai, non li vedo come animali da mangiare. C'è gente che si mangia anche il cane. Sì, ma cosa te ne fai? Te ne fai? A che città cosa te ne fai? Te ne fai? Bisogna accontentarsi, bisogna invecchiare insieme, le donne giovani bisogna lasciarle giovani, tutte a me, tutte a me. Beh, allora, tutto bene. Come va? Tutto chi? Io almeno in campagna prendi aria buona e non si ha contatto con nessuno, più che con gli animali. Che cani c'hai? Cani di quelli mitici oppure di razza? Ah, quindi si è trasferito proprio. Ho capito. Oramai si è fatto la famiglia. E poi che cani c'hai? In campagna quelli ci vogliono sempre. In campagna i topolini bianchi, quelli piccoli ci sono sempre. Già ci vogliono questi gatti. E i cani non gli altri. Ma roba piantata vai. Ti fai tipo un orto, dai. È grande la campagna. Ci vai di là, già mi dicevi. Se me ne dici ti sei offeso, allora io ho già approfittato. No, io grazie a Dio non mi posso lamentare, già sono tranquillo, non mi posso lamentare. Vabbè, campagna non nasce, chi su, ma a me la campagna mi piace solo mi andare a fare una driminata e dopo è turramini. Non mi piace stare a coltivare, a fare, troppo travaglio. appunto, quando è pressionato di andare, fa passare un tempo e andare a vedere qualche cosa che si rabbiata, va a casa sua e basta. E vigna non hai. Vabbè. Adesso mi piano piano si comincia a eliminare le cose. Man mano che uno aumenta di età, cominci, quello non lo faccio più, quell'altro non lo faccio più, alla fine azzeri tutto quanto, perché poi non ce la fai più col fisico e è logico che sia così. Anche io prima facevo servizio ambulanza, facevo un sacco di roba, adesso un po' mi sono rilassato, perché anche di salute non stavo bene, ultimamente mi hanno operato, quindi è meglio che me ne stia un po' a riposo, dai, rilassato. Quella motosega già si sa, no, com'è, c'ha più nodo e coso, quando si è piccarinato è un casino. No, io sono stato operato alla gamba, mi hanno messo la protesi al femore perché ce l'avevo consumato e grazie a Dio è andata bene l'operazione, sto camminando tranquillo, però non posso fare sforzi perché il dottore me l'ha detto. Se tu lo sforzi ti dura poco tempo, se non lo sforzi anche 30 anni, capito? Si consuma se tu stai a fare sforzi, a prendere pesi, cose così, alla fine poi lo usuri, capito? È una cosa meccanica praticamente, è un tipo un robot. Come andava? Non fatti a nulla, non credi. No, io a furia di tirare pedane con l'acqua e dopo già lo sai, prima non ce n'erano così elettrici, adesso tutti elettrici, prima era tutto a mano, apri la spalla era a mano a tirare i pedane in leva. Ciao, stammi bene, buona serata, ciao. Avanti, se su 10 c'è qualcuno. Breco. Avanti. Buonasera da questa parte Mandarino. Ciao Mandarino, ben sentito doppio rumo, avanti. Ascolta, chi c'è in linea? Ci sono io e basta, perché è andato via Falconero. Ci sono io, Gianni doppio rumo. Ma dove moduli Mandarino? Ho capito, io sono in zona via Rockefeller, dai. Ascolta, Roberto, lo stai sentendo? Non so se lo conosci. A Roberto Quadrato. Non so, Quadrato cos'è? Il cognome o... O così, perché frequenta al quadrato? No, è nominativo perché abita in zona. Capito? Cosa fa il carrozziere? Ah, ho capito. capito, non lo so se fa il carrozziere, io lo conosco, diciamo che l'ho conosciuto circa quasi un annetto, dai, l'ho conosciuto così tramite l'apparato. Niente, era perché se lo senti prima di me, magari me lo saluti comunque. Cappa, di solito entrava dopo le 7, dopo che finisce di lavorare, capito? Da quando è che moduli? Non ti avevo mai sentito. Allora, guarda, io ci sono, che però non ci modulo frequentemente, però l'ho messo in funzione circa un annetto sempre. Ascolta, volevo dirti, ma ieri sera verso le 7:30 c'eri tu modulando? Ieri sera lasciavi pensare, sai. No, perché ieri sera io non c'ero in frequenza qua. No, era solo perché adesso l'apparato che sto parlando ora non mi funzionava e sapevo che c'era gente, però era muto, non si sentiva niente. Gli ho dato dei colpetti dopo un po' all'apparato, l'ho spostato e l'ho colpito e dopo si è ripreso e allora sentivo le voci. Ci sarà qualche falso contatto probabilmente. Poi a furia di lasciarlo fermo magari, capito, come tutte le cose, quando si lasciano ferme si guastano, ogni tanto bisogna accenderlo, anche se non si usa, almeno per fare ascolto, ma per farlo scaldare ogni tanto bisogna accenderlo, muovere le manopole, perché a volte si bloccano. Ho capito, io ho pensato che magari poteva essere tipo la colonnina, capite? Ah, magari c'è qualche falso contatto e non riusciva, magari come ha dato il colpo si è spostato. Io ho capito. Ascolta, però io adesso purtroppo devo chiudere perché dovrei uscire, c'ho delle urgenze, eventualmente ci sentiamo quanto prima, dai. Come fai te, come ti chiami? Io te l'ho detto Gianni doppio Rum. Ah, ho capito, e già ti ho sentito altre volte, dai, mi hai fatto ricordare adesso Rum, ho capito. Cappa, dai, ti saluto, allora mi ha fatto piacere sentirti, quando vuoi entra, siamo qua. Buona serata. E io ancora grazie, a presto, ciao ciao. Che va? Marco, tu sì? No, io ho il bip. Ah, bippatosi, pattosi. Ma vuoi entrare o non vuoi entrare? Se no sto chiudendo. C'è un freddo qua già in questa stanza. È acceso, ma preferirei traslocare nell'altra, a meno che non mi porti una stufa, ma sì, oggi caspita, molto più freddo gli altri giorni. Porca miseria. Mediti una coperta, so, peggio di quelle coperte in paio, il catabugo da zigaglio. Come te la metti i mulli già? Ehi, tipo anziano, sto finendo tipo anziano. Le pantofole, la coperta in pile. Sì, ti stai comodo, cosa c'è tra anziano? Se non va freddo, è così. No, vabbè, le pantofole non le ho messe, ho messo le scarpe da ginnastica ormai. No, perché con le calze solo avevo freddo, con i sandali aperti per casa, no? I piedi gelati, è una cosa incredibile. No, stavo controllando email, le solite menate, Banggood, ti tormentano. E quando ti registri a questi siti cinesi, AliExpress, Banggood, Gearbest, ti tempestano sempre di decine esatte di offerte, di pubblicità non desiderata, dai. A me mi arrivano un po' di quelle pubblicità di donne che ti chiedono se vuoi fare sesso, roba così. Sì, intanto qualcosa arriva quando navighi sulle pagine, tipo mamme single, quella roba lì. E ormai è tutto pubblicità, non puoi navigare sulle pagine internet perché ce ne sopra, in mezzo, sotto. In ogni angolino c'è una piccola X da cliccare per chiudere tutto. È diventata una cosa, non era così 20 anni fa. Adesso con le pubblicità stanno esagerando, Sì, anche quando vai a vedere un video, a un certo punto si blocca, ti mette la pubblicità e poi ti mette salta, annuncio, eccetera, eccetera, e tu vabbè, devi cliccare lì per saltarlo, ma dopo un po' però prima ti rompe le scatole sul tubo e non ti mettono la pubblicità. Sì. E sta diventando, per esempio, YouTube, no? Se non vuoi gli annunci pubblicitari, mi pare che devi tipo abbonarti o pagare. Non mi ricordo se era YouTube o cos'altro era. E così le applicazioni, no? Molte applicazioni sono gratuite, no? Però hai la pubblicità. Ti appare l'opzione, vuoi eliminare la pubblicità? Allora, registrati, se devi buoni la carta di credito, se devi pagare il pizzo per non avere pubblicità, capito? Poi, d'altronde, le applicazioni, se sono gratuite, da qualche parte dovranno campare, quindi o campano da quello che paghi tu per l'applicazione o dalle pubblicità che compaiono nell'applicazione. Questo sì. È tutta una cosa virtuale, ma che c'è guadagno. Anche questo TikTok, mi sa che gli danno soldi quando riescono a avere un punteggio alto di follower. Poi TikTok era in mezzo a queste polemiche che spiavano, adesso Trump non so se se la stia prendendo anche con TikTok, è paranoico. Vabbè, gli americani sono paranoici che li spino perché hanno molto da nascondere, capito? Si sa che ce l'hanno sempre avuto contro la Cina, la Russia, eccetera eccetera. Gli americani sono provocatori, non ti credere che di cosa, guerra, sempre sono stati sempre così. Finché però, capito, non si mettono in mezzo in zone dove può intervenire la Russia o la Cina. A seconda di, cioè, loro vorrebbero fare molto di più. Però se si gira il ballo e la Russia dice no, a me non mi sta bene, allora mandiamo truppe noi, andiamo, vediamo come va a finire. E la Cina lo stesso. E comunque tre grandi potenze sempre ci hanno sempre qualcosa da nascondere o da. Guarda quell'ennesimo giornalista o cos'è, tutti quelli contro Putin, uno avvelenato col polonio radioattivo, l'altro col sarin messo nelle bevande, poi dici che non è davvero un fetentone Putin, tutti quelli contro di lui o spariscono, muoiono o avvelenati o di incidenti tra virgolette stradali, tante cose così, dai. Praticamente rivadi pure. Sì, poi voglio vedere quanto, se davvero c'è il consenso del popolo. Lui dice che ha il consenso del popolo, che lo votano tutti. E c'è da un bel po', rischia di starci altri, non so se 10, 15 o 20 anni, se campa pure. Non lo so. Vabbè. Poi c'è lui facendo il nazionalista. Allora tutti vanno a suo favore, bisogna vedere pure. Non è molto trasparente la Russia, cioè era l'onfia prima, ma anche dopo la caduta del comunismo è l'onfia anche adesso. Sono tutte le maggiori potenze, capito? Quelli hanno bombatori, cani e tutto. Se si gira qualcuno di quelle nazioni, facciamo fine brutta a tutti. Infatti c'è da sperare che non succederà mai niente di tutto ciò. E tutto inizia anche con banalità, Adesso mi pare c'è una nave turca che è entrata nel mare Egeo, e temono che si rialzino le tensioni tra Turchia e Grecia. E la Turchia adesso è abbastanza ben piazzata comunque com'è. E i greci turchi insomma hanno delle cose vecchie, sopite di centinaia di anni o millenni, capito? Non è che si possano vedere tanto pure lì. Ruggine arretrata. La? Dimmi già. Ho detto ruggine arretrata. Deia. La Turchia. Ma prima di quelle cose, di quelle purghe fatte da, come si chiama, Bodale in Turchia, da Erdogan, mi pare, volevano far entrare la Turchia in Europa, ma non che gliene freghi niente avere una nazione islamica in Europa, è che la Turchia c'è un esercito, e c'è strategica la Turchia, capito? c'è un esercito forte, insomma, poteva far comodo la Turchia in mezzo lì, in quel punto. Ma auguriamoci che ci sia sempre pace nel mondo. Se no, se dovessero appunto scontrarsi queste nazioni, ci piangono tutti. Penso che ci siamo andati vicino negli anni 60 con la storia di Cuba, mamma mia. E poi le cose comunque non si sapevano, cioè, con i mortali in Italia non si sarebbero accorti di niente nemmeno. Infatti quando chiedo a mia zia Paola, ho detto, ma sapevate niente all'epoca della crisi dei missili a Cuba? No. Non pervenuta, magari è tutta roba che è stata desecretata. Comunque non. È diverso, comunque gli Stati Uniti sono diversi anche da questi paesi europei, lì hanno l'allarme, come dire, quel sistema di allarme via radio, via TV, ha un nome particolare, cioè ti avvertono di raggiungere un rifugio antiatomico in caso di conflitto, no, qua finisce tutto, manco te ne accorgi, capito? Stai lì. Siamo proprio al di fuori del mondo. Sì, e quando c'era la guerra del Golfo, non te lo ricordi più, siamo stati tremandosi dall'uso. No, vabbè, io no, cioè non più di tanto, mi già. Vabbè, lì c'erano degli interessi, tutto per interesse poi. Vabbè, sapete, sto cercando una cosa. Cava, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Non entra nessuno. Chi è avanti? Cava, e tu chi sei? Ho detto tu chi sei. E poi? Vabbè, presentati quando vuoi, non c'è problema. Se voi siamo qua, io e Marco Condor, da dove stai modulando? Perché sta arrivando basso. Sì, dovresti arrivare a fondo scala qua. Io ho il QRM elettrico 5, QRM elettrico, quindi non sento nessuno. Dai, che non sei al monte alto tu, che arrivi in basso, presso al monte. Insomma, sei Santiago 4 così. Ma chi sei? Non mi dici chi sei? Possiamo aiutarti, attrezzarti, magari venderti qualcosa. Ma non c'è nessun problema, per questo. Se hai un'antenna, con che antenna stai usando? Per quello stai arrivando basso. Cappa. E che apparecchio hai? Americano. Che apparecchio può essere americano? Perché non leggi lì? Che cosa c'è scritto? Ah, si è cancellato. Ho capito. Monte Alto, chi può essere? Non ce l'ho presente, chi può essere? Caspita, Monte Alto dovrebbe arrivare anche molto bene qua. Beh, c'è zero totale. QRM elettrico 5, non più zero segnale. Sì, sta facendo come un pezzo di fil di ferro. Comunque già, quel sistema si chiama EAS, l'EAS americano. Ti compare a schermo TV su tutti i canali una specie di... delle scritte, dei toni, poi una voce forse preregistrata o elettronica. Senti il socco che fa. E poi c'è l'annuncio. E dove l'hai scaricato? No, non l'ho scaricato, su YouTube. Fanno anche gli scherzi, lo sai? Cioè inseriscono quella schermata lì, no? Insomma, questo video lo inseriscono all'interno di programmi normali. C'è chi fa scherzi a sorelle, padri, nonni, amici, eccetera. Una volta uno si è assustato, negli Stati Uniti sempre, il padre di un ragazzo si è messo le mani in testa, ha cominciato, stava agitando un po' troppo, e gli hanno dovuto dire in anticipo che erano scherzoni. Cioè, quando senti dire che sono in arrivo d'estate contro gli Stati Uniti, soprattutto nella città dove abiti, non ti viene il panico. Avanti l'amico, io dacci il nome in attivo così almeno ti chiamiamo quando devi entrare. Attento all'amico col fil di ferro. Vai Susè, non lo sento più, devo essere briccato di briccato. E' in condizioni precarie, stavo uscendo con un pezzo di filo ferro all'interno. Ehi, col filo ferro, con la grappa, cos'è? No, fil di ferro, filo ferro e fil di ferro. Sì, già, era una battuta, dai. Ah, attenzione il montadino. Comunque io sto sempre piangendo il mio famoso rosmetro a correttore. Boh. Il diavolo ci mette la coda e non solo. Non ti ricordi proprio dove l'hai messo? No, no, non è stato più rinvenuto. Quello è stato buttato, te lo dico io, per sbaglio. Ti mette la roba vecchia. Certo non buttato da me, perché io le controllo bene, eventuali scatole, buste. 150 euro in fumo intanto. Adesso costa 190 euro. La media globe, che è il più, quello più, no, a buon prezzo, 190 euro. Vai, non ammala, non ne compro più. Cappaga, che sei incavolato. Vabbè, colpa mia, devo avere più cura delle cose. Ed essere meno distratto già, perché sono troppo distratto. Sei capace che tua zia quando è venuta a fare l'utile si è rappato un indaro? Sì, sì, infatti, certo non l'ho buttato io. E vabbè. C'è ancora l'amico del monte? L'uomo del monte, c'è ancora? Ma lo chiamate, non ha risposto. Attenzione, l'amico, non risponde più, risponde più. Ehi, sì, Marco, così. Andà bene. Ma magari, come tante cose che io non mi ricordavo più di avere, ho trovato una spia a casa, una di quelle spie con la batteria, non mi ricordavo manco di avere, secondo me non è roba mia, una cimice. Una cimice? No, c'è una microspia, lo sai? Sì, una microspia, sì, ma io non mi ricordo mai di averla avuta. L'ho trovata su un mobile e non mi ricordavo manco di avere. Sono andato a mettere una scatola sopra e non andava avanti. Non ho capito perché. Sono salito con la scala, ho controllato e c'era questa roba qua. Magari qualcuno ti stava spiando. Ah, qualcuno ti stava spiando, magari di famiglia. A Varese ci avevi qualche fresca. Tutto è possibile già. No, ma era spenta, poi l'ho accesa e si è accesa la spia, capito? Era ancora carica la batteria. Ah, ecco, non è a dire che era con la batteria a scarica, no, che era magari accesa fino a scaricarsi la batteria, era spenta apposta. Ehi, ma cos'è? Come funziona? Tramite FM?